on. Sistemate le ultime cose, inizia prove tecniche di trasmissione, ritardo anche per problemi di traffico. E salutiamo la Nespray Sound, un allarmato Raffaele Pezzella, il quale salutiamo con un grosso affetto, un grosso ciao, ritornato dopo una pausa lavorativa. Un saluto al buon Antonio da Firenze. Dunque, prove tecniche di trasmissione in onda fino a circa le 22.30, 22.40, vedremo un po' se il buon 25 o'clock ci darà 10 minuti del suo prezioso spazio. 0649 1750, il sito internet www.ondarossa.info, anche per deliziarsi con lo streaming conseguente. L'indirizzo di posta elettronica è ondarossa@ondarossa.info e questo spazio ha anche una pagina Facebook, prove tecniche di trasmissione /disorder. Raffaele Pezzella l'abbiamo nominato e quindi iniziamo con Canada Experimental The Ground System Survey, il suo compendio ideato sfruttando progetti sotterranei o meno della scena canadese, una scena particolarmente interessante. E anche questa sera un paio di nomi estratti da questa compilation, esattamente Spectres con The Remain e Fern Lodge con una traccia dal nome Beyond the Silver Sky. Engine is on. vero e proprio drone ambient, questi Spectres, breve ma giustamente intenso, come viene definito dal buon Antonio. Si va avanti sempre da questa compilation della scena canadese, loro sono i Fern Lodge, questa Beyond the Silver Sky. Estratti abbastanza evanescenti per certi aspetti, questa serie da Canada Experimental The Ground System Survey, rispettivamente Spectres e Fern Lodge. Ebbene, arriviamo qui a Roma e nelle ultime settimane abbiamo apprezzato il lavoro, lo sforzo del buon Mushroom Passions, Raffaele Cerroni, E questa sera ci andiamo ad ascoltare un album, diciamo tra virgolette, più regolare della produzione Mushroom Passions. Si chiama Jellyfish. Forse una delle produzioni più elettroniche per questo artista italiano, e non a caso si avvale anche di collaborazioni importanti, tra le quali Genevieve Pasquier, che conosciamo anche come Torofon, e proprio con lei si apre questo album, un Subconsciousness Thrill. Oltre a questa traccia ci ascolteremo anche Tearing the Place Down. Run away. Ancora Mushroom Passions, e andiamo a salutare anche Fabio F.K. Drone da Bologna. Beneath this una super produzione questa per quanto riguarda Jellyfish in Mushroom Passions. Qui alla voce c'era addirittura Stephen Mallinder, quindi un pezzo dei Cabaret Voltaire in ottima partecipazione in questo traccione. Quindi ottimi ospiti, Geneve Pasquier, conosciuta anche sia con la sua ottima carriera solista, ma anche come voce femminile insieme a Anthony Knilpert per quanto riguarda Torophone. Stephen Mallinder non ha bisogno di presentazioni, ma a questo punto direi anche di menzionare il resto dei partecipanti a questo disco, ossia Vince Aquarian alla voce, anzi al Moog, ma credo anche alla voce, il buon Claudio Giammarini Claudedi, Luciano Genovese, artista qui di Roma, e un nostro tributo particolare va naturalmente all'indimenticato Jervy Costa. Salutiamo anche Joy Miller, ossia il precedente artista Fern Lodge, estratto dalla compilation canadese. Lui invece si chiama Iron, progetto parallelo ai Legionari. Questo primo lavoro si chiamava Evolving del 2013. Battute elettroniche su un supporto Martial. Questa è Mechanic State, seguita da Destroy. Salutiamo anche Camelia e il buon Stefano Di Serio, Leck e Wake, qui da Roma. Potenza espressa da Iron. Vero pugno nello stomaco di questo progetto tedesco tra Martial e scansioni elettroniche. Si chiamava Evolving, primo lavoro del 2013, che usciva attraverso la Raging Eden, etichetta polacca assai nota negli spazi qui del mercoledì sera. Ancora un saluto Gene Wilde, ossia proprio il detentore del progetto Spectres che abbiamo ascoltato ad inizio trasmissione, e Keith Whitman, sempre dalla, questa volta dalla Gran Bretagna. E proprio in Gran Bretagna andiamo, lo facciamo con David Tibbett. Anche lui non ha bisogno di presentazione, quindi Current 93. Qui ripresi in un album, diciamo, della mediana carriera, una carriera iniziata all'inizio degli anni Ottanta. L'album si chiama All the Pretty Little Horses. E anche questa sera tre brevi passaggi: This Carnival is Dead and Gone, The Bloodbath's Crime e Calling for the Vanishing Faces number 2. Dear sir, dear lady, this carnival is dead and gone, and never any way, alas, this party never yet began. The chairs and tables, dust of dust, yes, very dust, a very rust, a very must, and farewell trust. I thought I saw you in the crowd, dear heart. You turned away from me, and then you dissolved into light. The broken lights and faded bunting call to us all the inmost light. And don't glare wide your eyes in wonder, they will flick back inside your mind, and on the bone screen of your skull they watch no music hall salutes. So thoroughly modern now are we, but the last reel of all time, the inmost night, its frames are glared and slow and out of focus. A Valentino, a Valimos, all dead, the inmost night. And the little bells go tinkle, and your eyes begin to twinkle, and the joints and sinews crack. I crack the expansion of your mind. Dead. The choke of dead. The inmost night. The cat's face glares from shiny card. The dead cat from my past. You tumble, you froth and fun forever. An orchestra from another time, another world, all dead. The church bells silent, the rain-stained glass of God is smashed. And you take your choice, you sup with the devil, you choke on your pride forever and ever. My memory of my inmost light, it tumbles from and fun forever. A vague memory is imagined of my would-be life. Well, that won't be, and that won't be, and that won't be, and that won't be. And for my troubles and my pains, and for the losses and the wanes, I get a picture in my mind, a slyly, smiley, sly kiss of your sweetheart and face, and your legs in some final benediction. Your inmost warm heart says ta-ra, and I wish to die inside of you and push up into your heart so violently that face to face with Matrix Creatrix am the inmost light, the inmost night. Sell all you have, give it to the kittens, and pour the milk on Louis' grave. And Catland, sometimes called Pussydom, opens for you instantly. It's the inmost light. It's the inmost light. Somewhere over the rainbow, on the good ship Lollipop. Current 93, salutiamo Gabriel Eldevi da Londra e anche a Katia Lunden, un grosso saluto anche a lei. Ancora Current 93 da questo All the Pretty Little Horses. If only I could take all of you at once, I would take you forever and ever. And ever and only so lose myself in you. And so I smile and skip green godlike there, the picture of all rage or lust and wanton. The inmost night, and lay waste to the playgrounds. The concrete covers all. The grass sleeps and waits to rise again. It listens for the final trumpet of the inmost light, and I clench my left hand. Then I open it. The gods I loved are all dead. Pages, metal signs, all gone. Edward Alexander in some sad home falls alone and sees clearly now.